America 24 di Mario Platero. Now because my temperate wrench is sometimes a bit different than yours, Mr. President. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Lo avete sentito direttamente dalle sue parole, Rahm Emanuel, che parla, l'ex ormai capo di gabinetto del presidente Barack Obama, che dice in queste poche parole: beh, signor presidente, io devo dire, abbiamo caratteri molto molto diversi e devo anche dire che forse durante questa mia permanenza lei ha probabilmente imparato qualche parolaccia in più e forse anche alcune combinazioni di parolacce che possono averla sorpresa. Rahm Emanuel, personaggio molto colorito, che lascia Washington, torna a Chicago dove vuole battersi per vincere la poltrona di sindaco, ha parlato in un momento anche di commozione in cui ha dato l'addio ai suoi amici, al presidente, in una cerimonia della settimana scorsa. Un personaggio duro, lo abbiamo detto anche in passato, un personaggio che era in grado di impugnare un coltello e colpire le fotografie dei suoi avversari politici sul tavolo, che era in grado di andare in uno spogliatoio e aggredire seminudo un suo avversario politico perché votava contro di lui, lo ha fatto negli spogliatoi del Congresso. Ebbene, questo signor Emanuel, durissimo, con fama da durissimo, la settimana scorsa si è commosso, si è messo a piangere. Sentiamolo. You have lived that American dream, Mr. President, as have I. My grandfather came to this country for opportunity. They came here. Avete sentito la voce rotta dalla commozione di Rahm Emanuel? Lui si rivolge al presidente e dice: lei ha vissuto il sogno americano, anche lei è venuto qui figlio di un padre che cercava delle opportunità, mio padre, mio nonno sono venuti in questa terra per cercare una vita migliore per i loro figli, mia madre marciò con Martin Luther King al fianco di Martin Luther King nelle marce di protesta perché era convinta che nessuno è libero fino a quando non lo siamo tutti. Ecco, Rahm Emanuel ha unito se stesso e Barack Obama, due figli di immigrati che nella prima generazione in America, in questo paese, sono arrivati alla Casa Bianca. Ecco, devo dirvi, la scena era alquanto hollywoodiana sotto un certo punto di vista, perché c'era la coreografia straordinaria della Casa Bianca, del presidente elegantissimo che lo guardava, lui che parlava, il pubblico con tutti i grandi protagonisti della vita politica di Washington e dell'amministrazione, David Axelrod, il consigliere del presidente, Hillary Clinton, il segretario di Stato, Gibbs, il portavoce. Ecco, era un parterre, era come una scena di un film con il duro che piange e si commuove. Ora, da noi questo forse può sembrare anche un po' un luogo comune, un po' di debolezza, un po' troppo retorica, ma la verità è che qui in America ci credono davvero e quindi ve l'ho voluto proporre per vedere un po' quest'altro lato di quella che invece poi è la facciata politica del cambio della guardia, del fatto che ci sta preparando a queste elezioni di novembre. Ormai il countdown, il conto alla rovescia è cominciato, per ragionare un po' su questa America che da una parte straordinariamente aggressiva e polarizzata e dall'altra così si commuove anche nell'animo dei suoi uomini più duri quando parla della realizzazione del sogno americano. I think it's time we taught them a lesson. E dunque dall'addio e dalle emozioni della Casa Bianca torniamo al realismo politico. La voce che avete sentito è quella di David Plouffe, il consigliere strategico per le elezioni di Barack Obama, che così minaccia gli avversari: gli insegneremo una lezione come si possono vincere degli appuntamenti elettorali. Non è chiaro che i democratici ci riescano davvero, però Plouffe è partito in un attacco frenetico contro Christine O'Donnell, uno dei candidati che ha vinto grazie ai Tea Parties. I Tea Parties sono sotto attacco e in effetti in Delaware Christine O'Donnell potrebbe non farcela e dunque proprio per questo spostamento un po' troppo a destra il Partito Repubblicano poi potrebbe trovarsi in difficoltà durante le elezioni generali. Dunque l'attacco continua. David Plouffe ha mandato una lettera proprio ieri a tutti, l'ho ricevuta anch'io nell'email, in cui lancia appunto questo attacco a Christine Robin O'Donnell, ma gli attacchi sono anche diversi. Max Baucus, il senatore, uno dei più importanti senatori americani, ha lanciato addirittura un attacco legale. Sentiamolo. That's why it's time to act. È arrivato il momento di agire, è arrivato il nostro momento nella storia. Max Baucus, che fu uno dei grandi firmatari del progetto di riforma sanitaria in America, è partito su un altro attacco. Il confronto politico americano è arrivato in tribunale. Anzi, peggio, l'attenzione del fisco, proprio del temuto Internal Revenue Service, a cui Baucus si è rivolto per chiedere che ci sia un'inchiesta su certi finanziamenti che secondo lui avvengono nella campagna politica americana e che secondo lui, appunto, come vi dicevo, sono irregolari. Baucus protesta perché una liberalizzazione delle quantità di denaro che possono essere donate esentasse a certe strutture, a certe organizzazioni che hanno in teoria delle missioni sociali, in realtà poi possono anche essere dirottati su campagne elettorali, su questo o quel candidato. E dunque i problemi dal punto di vista dei democratici sono due. Il primo è che questi finanziamenti sono soprattutto a vantaggio dei repubblicani nella misura di 3-1. Il secondo punto è che questi finanziamenti vanno sia ai Tea Parties, che sono il movimento populista che ha portato una gran quantità di nuovi candidati sulla cresta dell'onda, sia a movimenti più tradizionalisti. Karl Rove, il grande stratega di Bush, ha raccolto addirittura 32 milioni di dollari, potrebbe raccoglierne fino a 50. Dunque una sana protesta nel corso di questo dibattito elettorale, di questo ultimo mese prima delle elezioni. Dov'è un punto di collegamento fra la commozione, le emozioni di Rahm Emanuel che dà la via alla Casa Bianca e questa battaglia per la trasparenza? Beh, il punto di collegamento è la libertà di cui parlava proprio Rahm Emanuel. Questo è un paese dove la meritocrazia vince, dove in trasparenza si cerca comunque di far sì che le persone rispondano direttamente alla loro base elettorale e dunque il dibattito avviene sempre in questa direzione. E dunque, anche se possono esserci percezioni di ingiustizie come quelle che ha denunciato Baucus, la verità è che il sistema alla fine porta al Congresso dei deputati e dei senatori che rispondono direttamente alla loro base elettorale, alla loro constituency. Perché vi ho raccontato queste storie politiche americane? Perché al di là delle polemiche, alla fine il sistema funziona, secondo me, meglio del nostro. Cioè, coloro che vengono eletti hanno un rapporto molto più diretto di quello che abbiamo noi con la base elettorale, con colui che elegge il suo rappresentante in Parlamento. Da noi prevalgono i partiti e sono delle nomine precostituite. Le posizioni non si conquistano con il sudore, con la fatica, con le unghie, come ha fatto ad esempio Emanuel, che poi si commuove e proprio per questo viene capito dagli americani in modo in cui forse non verrebbe capito da noi. Vorrei aprire un piccolo dibattito su questo, non ora, lo lancio, lo faremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane a cavallo di queste elezioni americane, e dunque scriveteci anche ad America 24 per dirci cosa ne pensate. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com e per quel dibattito di cui vi parlavo, di confronto elettorale, beh, scriveteci su Twitter 24 America o su Facebook, di modo che potremo parlarne. Ed eccoci alla canzone del giorno. David Bowie sta lavorando a un libro fotografico, Bowie's Archives, una collezione di 100 fotografie tratte dagli archivi dal cantante. Dedichiamo dunque a Bowie, che ci ha dato questa notizia nel weekend, la canzone del giorno, The Man Who Sold the World, l'uomo che ha venduto il mondo, in tema alla battaglia di Baucus per la trasparenza dei finanziamenti. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.